in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani che, come potete immaginare, danno tantissimo spazio a quello che è successo ieri a Monaco. Per forza di cose però sono più le analisi, quelle che possiamo considerare, che non la cronaca vera e propria, perché come avete sentito anche nel GR, poi la cronaca verrà aggiornata in queste ore e per tutta la giornata. Allora cominciamo dal Sole 24 Ore, che sotto alla testata, in quello che in gergo chiamiamo il palchettone, che è un titolo che occupa tutta la prima pagina, la larghezza della prima pagina del giornale: Monaco, il veleno del terrore, spari al centro commerciale. Il commento è di Antonio Negri, di Alberto Negri, scusatemi, il nuovo crocevia di tutte le paure. Però poi c'è anche un articolo di Ugo Tramballi, che trovate, tutti questi articoli li trovate poi a pagina 2 e 3, dalla Francia alla Germania aumentano le ansie e il bisogno di sicurezza. E il titolo vero e proprio, però, quello che probabilmente, se appunto dalle 6:30 circa in poi non avessero cominciato ad arrivare tutte le notizie da Monaco, sarebbe stato il vero titolo del giornale, riguarda la Brexit che frena l'industria inglese, mercati in fuga dalla sterlina. Gli approfondimenti li trovate poi a pagina 7. In prima pagina c'è anche un grafico che mostra l'andamento della sterlina rispetto al dollaro e il crollo del mese di giugno dopo il referendum che si è tenuto il 23 di giugno, che ha sancito appunto la decisione di poco più della metà degli elettori di uscire dall'Unione Europea. Il Corriere della Sera, giorno di terrore a Monaco, e qui vi segnalo il commento di Gian Antonio Stella, la violenza tra di noi. Vi leggo le prime righe. Chiunque può superare una crisi, è il quotidiano che ti logora, scriveva un secolo fa Anton Chekhov. Ed è lì che il ripetersi e poi il ripetersi e poi il ripetersi ancora di attentati infetta le nostre vite, iniettando insicurezza, affanno, paura. E più le armi sono diverse, il coltello, la pistola, il Kalashnikov, il camion lanciato a tutta velocità a travolgere coppie di pensionati e famigliole coi figli sui passeggini, più monta l'inquietudine, la profanazione della nostra quotidianità. Ecco ciò che stiamo vivendo noi europei. In prima pagina sul Corriere della Sera anche molta evidenza, questo che viene definito il duello sullo sciopero. Oggi, sapete, avrebbe dovuto esserci uno sciopero sostanzialmente del trasporto aereo. Il TAR del Lazio aveva bloccato l'ordinanza per sospendere lo sciopero, poi è intervenuto sia il ministro dell'Interno Alfano che il ministro delle Infrastrutture Delrio e pare che appunto lo sciopero sia scongiurato, anche se poi stasera ne inizierà un altro dei treni. La Repubblica, Germania al giorno del terrore, qui vi segnalo due, a parte la corrispondenza di Tonia Mastrobuoni che è a Berlino e racconta anche le immediate reazioni della politica e in particolare della cancelliera Merkel, vi segnalo due commenti. Uno di Anthony Giddens, che è uno storico ma anche un bravissimo divulgatore britannico, l'odio spacca l'Occidente, lo trovate poi a pagina 5, e poi un'intervista a Di Lorenzo, che è il direttore della Zeit, che è un settimanale tedesco. Di Lorenzo è italo-tedesco, dirige da molti anni questo settimanale, parla benissimo l'italiano e definisce quello che è successo un ritorno agli anni 70, e vedremo che poi il riferimento è anche all'attentato che nel 1972 ai Giochi Olimpici di Monaco sconvolse la Germania con la morte di 11 atleti israeliani. Un richiamo anche a quello che sta succedendo in Turchia sulla prima pagina della Repubblica, nei giornali in trincea: Erdogan ci punirà. La Stampa: spari sulla folla, terrore in Germania. Qui il commento principale è affidato a Elena Löwenthal: ostaggi in un mondo che si chiude. Il Messaggero: Monaco sconvolta dal terrore. In questo caso anche qui tanti commenti, quello di Alessandro Orsini, per chi forse aveva seguito anche la rassegna europea, si concentra su questo fatto che sembra un'anomalia l'attacco in Germania, perché finora, come sappiamo, a parte quello di qualche giorno fa del cosiddetto lupo solitario, anche se poi questa definizione di lupo solitario, perché se è mai visto in natura un lupo che si scaglia vigliaccamente contro i suoi simili, non credo. Comunque li vengono chiamati così, lone wolf, lupi solitari, insomma questi ragazzi, in generale ragazzi giovani che commettono degli atti terroristici e poi lo dicono di farlo in nome di Allah. In ogni caso, a parte quello che era stato appunto il ragazzo profugo che era salito su un treno accoltellando una famiglia, è quella, Alessandro Orsini definisce sul Messaggero l'anomalia di un attacco alla Germania, quello che è successo appunto ieri a Monaco. Dalla prima pagina del Messaggero vi segnalo anche, poi all'interno c'è una pagina intera dedicata a questo, la famosa riforma mania della pubblica amministrazione, si aspetta la versione definitiva, qui si parla della bozza, dirigenti pubblici valutati durante 3 anni di prova. Sobrio il titolo di Libero, maledetti terroristi, 2 punti basta, l'Europa sempre più vittima della follia assassina, ormai c'è un attacco alla settimana. E la fotonotizia però è dedicata a Donald Trump, che come sapete è ufficialmente il candidato repubblicano alle elezioni presidenziali di novembre, e sia Libero sia il giornale pubblicano interamente il discorso, non interamente perché è stato lunghissimo, è stato credo il più lungo discorso di insediamento, di accettazione della nomination di una convention repubblicana, però pubblica le parti principali del discorso di Donald Trump, e il titolo scelto è "Finalmente un leader decente". Vi segnalo anche il ricordo di Vittorio Feltri di Indro Montanelli, perché ieri 22 luglio era il 15° anniversario della morte di questo giornalista, e il titolo del ricordo di Vittorio Feltri, che poi continua a pagina 13, "Perché Montanelli prima fu odiato e poi amato a sinistra". Il giornale "Fuoco sulla Merkel", e anche in questo caso, come vi dicevo, richiamata in prima pagina il discorso di Trump alla convention. Un richiamo anche naturalmente a quello che è successo ieri ad Arcore, con questo vertice convocato da Berlusconi per cercare di delineare il futuro di Forza Italia, una possibile leadership di Stefano Parisi, che era il candidato sindaco a Milano, e anche le reazioni sia interne al partito sia dei possibili alleati, primi fra tutti naturalmente la Lega. Avvenire, un'altra folle strage. E in questo caso però vi segnalo dall'Avvenire, dalla prima pagina, una notizia che ho trovato solo qui e che anticipa quello che succederà lunedì alla Camera, dove si inizia la discussione sulla legalizzazione delle droghe leggere. L'erba spunta in aula e spacca il Parlamento. Questa naturalmente è una questione di cui si parla da tantissimo tempo, non liberalizzare ma legalizzare l'uso delle droghe leggere. Secondo chi è favorevole, serve in realtà contrastare la criminalità organizzata, perché legalizzandola verrebbe a mancare una delle principali fonti di guadagno della criminalità organizzata, però secondo invece stiamo semplificando molto, secondo invece chi non è d'accordo con questa misura, lo Stato non dovrebbe comunque mai farsi spacciatore o venditore di una qualsiasi droga. Poi naturalmente c'è chi dice allora come la mettiamo col gioco d'azzardo, che non soltanto è legale ma sul quale lo Stato guadagna anche molti soldi. Dalla prima pagina dell'Avvenire vi segnalo un interessantissimo articolo che poi trovate a pagina 3 di Giusto Sciacchitano, che si intitola "L'apertura dell'Iran, opportunità culturale per l'Occidente". È un po' così, per una coincidenza, sappiamo che l'attentatore di ieri di Monaco era appunto un ragazzo molto giovane di origini iraniane. Dalla prima pagina anche una storia veramente impressionante, che peraltro fa il paio con un fatto di cronaca avvenuto proprio ieri a Milano. Questa storia proviene dall'Afghanistan, riguarda una bambina di 14 anni, una sposa bambina che è stata arsa viva. L'avevano costretta al matrimonio a 12 anni come merce di scambio tra famiglie, e morta sabato scorso per le terribili ustioni riportate insieme al bambino che portava in grembo, e aveva 14 anni. Il Fatto Quotidiano, "Massacro a Monaco, il nuovo volto del terrore", e in questo caso il Fatto è l'unico che fin dalla prima pagina richiama appunto gli avvenimenti, come dicevamo, del 1972, che sono stati il peggior attacco terroristico durante la storia dei giochi olimpici. Vennero uccisi 11 atleti israeliani da un comando di terroristi palestinesi, e il titolo appunto dell'articolo richiamato in prima pagina, che poi trovate a pagina 3, è "Lo spettro di quel 72 maledetto". Un approfondimento che poi trovate a pagina 7 del Fatto Quotidiano richiamato in prima pagina riguarda la RAI, uno di quei temi che molti consideravano un po' il banco di prova del governo Renzi, se veramente si fosse riuscito a cambiare la RAI, un cambiamento che si auspica da tantissimo tempo. Adesso la pietra dello scandalo è che ci sono dei super stipendi alla RAI che non dovrebbero esserci, anche per la legge che mette un tetto agli stipendi pubblici. Panico e crisi di nervi alla RAI, sfondato il tetto dei 240.000 euro, Campo Dall'Orto, che è il direttore generale, Maggioni, che è la presidente. Domani o al più tardi lunedì i vertici di Viale Mazzini dovranno svelare i compensi secondo i criteri imposti dalla trasparenza. Per il nuovo amministratore delegato una dichiarazione da circa 650.000 euro, per la presidente 350.000, oltre i 200.000 diversi nuovi direttori, tra cui Daria Bignardi, che come forse sapete è il direttore di Rai 3. Ma vi dicevo, perché mi sembra interessante fare, appunto, visto che anche Di Lorenzo, intervistato da Repubblica, fa questo parallelo con quello che succedeva negli anni 70, in particolare nel 1972, a pagina 3 del Fatto, appunto, questo articolo di Valerio Cattano: Olimpiadi 72, così il mondo conobbe il terrore in diretta. Forse alcuni di voi hanno visto il film Munich di Steven Spielberg di qualche anno fa, e che ricostruiva, secondo molti, in un modo molto fedele, la vicenda degli attentati, e si capiva molto, si vedeva come venivano, appunto, trasmesse in televisione le notizie in tempo reale. Non c'erano i social network, ma le televisioni erano tutte concentrate su quello che stava succedendo a Monaco, anche perché periodo di Olimpiadi, quindi comunque l'attenzione era su Monaco comunque. E poi il film ripercorreva anche poi la storia di come il Mossad, i servizi segreti israeliani, arruolarono, all'epoca il premier era una donna, Golda Meir, arruolarono degli agenti speciali che negli anni successivi diedero la caccia e uccisero quasi tutti i responsabili, i terroristi palestinesi responsabili di quell'attacco. Il manifesto non c'è tregua, e poi però il manifesto ha in prima pagina un richiamo, e poi trovate tutto alle pagine 6 e 7, di tutto uno studio che ha fatto Medici Senza Frontiere, in particolare su un naufragio che ha coinvolto moltissime donne. E in questi racconti si capisce questa lotta per la sopravvivenza e contro la morte, magari anche di persone che sanno di non saper nuotare. E così, quindi, il titolo scelto dal manifesto: così le ho viste morire soffocate, urlavano e mordevano per salvarsi, le testimonianze dei migranti sopravvissuti al naufragio in cui sono morte 20 donne. Vi segnalo dal Foglio del sabato, che è un più corposo dell'edizione normale della settimana, siccome ha compiuto 20 anni il Foglio, sta allegando al sabato dei numeri da collezione, e quello di oggi contiene anche un articolo apparso nel 2009, venerdì 6 novembre del 2009, che è intitolato, pensate, stiamo perdendo la Turchia, quindi quasi 7 anni fa. Toni freddi con Israele, rapporti stretti con i vicini, soprattutto con l'Iran. L'Unione Europea interessa sempre meno. È come se avessero spostato una montagna. Ankara prende le distanze dalla NATO e si sposta a est, dice un esperto. E anche qui c'è un aggancio di cronaca, perché, come forse avete sentito, ma anche oggi sui giornali c'è questa ipotesi, c'è un riavvicinamento, parlando di est appunto, tra Erdogan e il presidente russo Vladimir Putin. Ultima prima pagina, prima della pausa sul traffico, l'estate del terrore, titola l'Unità. E in questo caso il commento del direttore dell'Unità, Erasmo D'Angelis, l'obiettivo di questi assassini. In realtà spazio ancora un secondo per la prima pagina della Gazzetta dello Sport, Pokémon Juve, il riferimento è al gioco che sta contagiando tutti, la app Pokémon Go, perché come nel gioco del momento, scrive la Gazzetta, parte la caccia ai campioni. Ci fermiamo un attimo per le informazioni sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. C'è un ascoltatore che mi scrive: smetti di leggere gli articoli, passa direttamente alle notizie. Ma gli articoli raccontano le notizie, quindi e poi soprattutto, come vi dicevo, per la cronaca conviene affidarsi nelle prossime ore, soprattutto sull'avvenimento di Monaco, ai GR, perché si avranno le notizie più aggiornate. Torniamo sul Sole 24 Ore, le pagine interne, la copertina del dorso di Impresa e Territori, che fa un po' il punto sui segnali dell'economia reale. Marco Morino racconta: doccia fredda sull'industria a maggio. Il calo dei ricavi colpisce tutti i settori, con la sola eccezione dell'auto e della farmaceutica. In calo anche l'export, questo lo scrive Laura Cavestri, in 6 mesi sono stati persi 3,6 miliardi. In questo caso pesa moltissimo la flessione del Sud America, dei paesi del Mercosur, meno 18,2%, e lì sapete che oltre alla crisi del Brasile c'è la crisi, di cui si parla pochissimo ma che è profondissima, del Venezuela. L'analisi è di Lello Naso, il caporedattore e il responsabile della sezione Imprese e Territori. Necessarie misure per sostenere la crescita, perché come vediamo, nonostante i segnali che c'erano stati positivi soprattutto in aprile e anche prima, adesso quelli di maggio positivi non lo sono affatto. Certo, moltissimi fattori sono fuori dal controllo delle politiche industriali dei singoli paesi o delle politiche economiche o monetarie, però comunque bisogna continuare appunto a cercare di trovare delle autentiche misure per la crescita. Dalla prima pagina del dorso di Finanza e Mercati invece un approfondimento a cura di Marigia Mangano sulla ormai famigerata offerta pubblica di acquisto e scambio di Cairo per il gruppo RCS. Le notizie nei giorni scorsi erano Cairo ha vinto, poi però sono partiti i ricorsi da parte della cordata che ha perso, quella guidata dal finanziere Andrea Bonomi, però la Consob ha dato un primo ok. L'OPAS di Cairo su RCS può andare avanti, ieri prima dell'apertura dei mercati questo è stato il verdetto della Consob, ma poi c'è stato ancora un altro esposto. Vi segnalo anche una storia che trovate solo sul Sole 24 Ore, raccontata da Chiara Beghelli. IPO, cioè offerta pubblica di acquisto, quotazione in borsa, debutto in borsa da 5 miliardi di dollari per Miss Sixty. Miss Sixty è uno dei marchi che faceva parte del gruppo Sixty, che era stato fondato da Vicky Hassan, che poi purtroppo nel 2011 è morto, ed era un gruppo che nei suoi anni migliori aveva raggiunto un fatturato importante, circa 750 milioni di euro. Poi è passata ai cinesi e ora appunto che ora stanno pensando di quotarla con queste cifre impressionanti. Col Sole 24 Ore di sabato anche Plus 24, il settimanale dedicato alla finanza e risparmio, storia di copertina: nubi in vista sulle borse, Morgan Stanley taglia le stime di crescita globale, mentre gestori e consulenti indicano nei paesi emergenti la riserva di rendimento a cui attingere da qui a fine anno in attesa di notizie dagli Stati Uniti. Dal Corriere della Sera, forse lo ricorderete, nei giorni scorsi c'è stato un lunghissimo articolo di Gian Antonio Stella, ma poi è un tema che hanno trattato in moltissimi giornali, anche qui alla radio se ne è parlato tanto, questo famoso codice degli appalti che eravamo obbligati a riformulare da una direttiva dell'Unione Europea. Lo abbiamo fatto, ma in questo codice degli appalti ci sono una serie di strafalcioni grammaticali, logici, legislativi da far inorridire. E allora Michele Corradino, che è un magistrato del Consiglio di Stato e che dal 2014 è consigliere dell'autorità anticorruzione, racconta questa vicenda e dice: una pessima figura, ma avevamo molta fretta. Insomma, a me non sembra una scusa, una spiegazione sufficiente, però insomma sicuramente la fretta fa fare le cose male, però la figuraccia in effetti a tutti gli effetti c'è stata. Poi una bella storia, sempre sul Corriere, a pagina 25, la racconta Elisabetta Rosa Spina, il giro del mondo in 11 giorni, e racconta il volo in pallone, appunto in mongolfiera, del prete ortodosso Fedor Konyukov, partito per battere il record in solitaria intorno al globo. Dalla pagina interna della Repubblica un interessante articolo che riguarda un altro tema di cui si parla molto, che è molto importante anche quando si parla di immigrazione e integrazione, che è quello delle periferie, dei piccoli centri. E il titolo scelto da Repubblica per questo incontro con Daniel Libeskind: nei borghi c'è il DNA dell'umanità. Daniel Libeskind, un architetto che vive negli Stati Uniti da moltissimi anni, è una delle tante archistar, anche qui a Milano ha ridisegnato la skyline della città, e racconta appunto il fascino dei piccoli centri italiani, già 100 anni fa pensati per i bisogni reali della gente. Dalla Repubblica anche nelle pagine R Club, quelle un po' di così, di evasione, diciamo, del sabato, una lunga intervista di Giuseppe Vedetti a Luca Carboni. Non sono pigro, ma non amo un mondo che corre. E l'altro virgolettato, io nomade dai ritmi lenti. Sulla stampa invece trovate una intervista all'ambasciatore israeliano Naor Gilon, che è a fine mandato, l'ambasciatore in Italia, e il virgolettato scelto dalla stampa è: i grillini deformano la realtà di quel che avviene a Gaza per pregiudizio e ignoranza. D'Alema è ossessionato da noi, Renzi invece è un grande amico. Forse ricorderete una decina di giorni fa la visita di Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera, a Israele con alcune persone che lo accompagnavano, italiane. Aveva chiesto di andare anche a Gaza, il permesso gli è stato negato perché ci sono una serie di, comunque c'è un iter di sicurezza da seguire, e lui ha detto che era Israele che voleva nascondere, non voleva far vedere quello che succedeva a Gaza. Polemica diplomatica anche molto aspra, e adesso in cui entra anche questa intervista fatta da Francesca Scianchi appunto a Naor Gilon. Sempre dalla stampa, una notizia che trovate anche sugli altri giornali, ma forse non con questa enfasi: Amazon scommette sull'Italia, investiamo oltre 150 milioni. A Torino ci sarà un centro di ricerca sull'intelligenza artificiale, mentre a Roma un polo logistico. Amazon, naturalmente, il colosso del commercio elettronico, è iniziato tutto con i libri nel 1999, adesso su Amazon si trova qualsiasi cosa. E sono 1200 i posti di lavoro che verranno creati e 450 i milioni, ci racconta la stampa, già investiti da Amazon in Italia dal 2010. In totale, fino a questo punto, Amazon in Italia ha già creato 1700 posti di lavoro. Poi con la stampa al sabato c'è anche Tutto Libri, un supplemento dedicato appunto alla lettura, con tante recensioni, piccole segnalazioni, schede, ma anche lunghe recensioni, o come sulla copertina in questa oggi, un'intervista di Bruno Quaranta a Cesare De Seta in occasione dell'uscita del suo nuovo libro L'arte del viaggio. E visto che anche Luca Carboni parlava della necessità a volte di fare le cose con un po' di lentezza, Cesare De Seta dice: la velocità peggiora il viaggio, la meta deve essere accostata. Il mezzo migliore è il treno, si guarda dal finestrino. Le periferie, i modelli sono Amsterdam e la Vienna rossa degli anni 30. Vi dicevo dal Messaggero l'approfondimento sulla riforma della pubblica amministrazione, c'è questa bozza, trovate appunto tutto, perché il decreto attuativo, senza il quale, sapete, qualsiasi legge, anche la più strombazzata, è come se non esistesse, potrebbe andare in Consiglio dei Ministri la prima settimana di agosto. La delega scade il 29, quindi o appunto questo decreto attuativo va al Consiglio dei Ministri e viene approvato entro il 29, oppure bisogna ricominciare tutto da capo. Dal giornale, chi magari mi ha già ascoltata qualche volta sa che sono una grande amante di gatti e di cani, in realtà di qualsiasi tipo di animale, dal giornale trovate due approfondimenti per portare gli animali in vacanza, in particolare appunto i gatti e i cani, e tutto quello che le attenzioni che bisogna avere quando... Sia per i gatti sia per i cani quando arriva il caldo e soprattutto quando decidiamo di portarli con noi in vacanza. Dal Fatto Quotidiano vi avevo segnalato appunto quell'articolo, lo trovate a pagina 7 di Carlo Tecce sugli stipendi che devono essere resi noti dalla RAI. Un'altra storia un po' da mani sul volante, direbbe Alessandro Milan: pedemontana per lo Stato una bomba da 20 miliardi. Il privato che dovrebbe finanziare questa superstrada in Veneto ha sbagliato i conti e ora chiede aiuto alla regione, che naturalmente dovrebbe risanare, come spessissimo succede in Italia, che vengono privatizzati i profitti e poi invece messi a carico dello Stato le perdite. Questo sarebbe un altro brutto esempio. Dal Manifesto invece vi segnalo il supplemento del sabato, che poi c'è anche alla domenica, che si chiama Alias e in questo proprio, naturalmente era stato sicuramente chiuso prima dei fatti di ieri, però la copertina è dedicata a Tony Maraini che racconta la complessità del mondo musulmano e di come sia difficile per noi farsene un'idea completa, soprattutto quando le uniche vere notizie che abbiamo sono quelle degli islamisti, dei fondamentalisti. Vi dicevo sul Manifesto, per appunto questo impegno di Medici Senza Frontiere, che ha raccolto gli agghiaccianti racconti dei superstiti e dei soccorritori della strage delle 20 donne a bordo di uno dei due comuni intercettati giovedì scorso dalla nave Aquarius, e ci sono le testimonianze che il manifesto pubblica integralmente. La vicenda dei controllori e dello sciopero forse scontato la trovate sul giornale, anche sull'Avvenire in particolare. Controllori precettati, si dovrebbe volare in modo regolare oggi. E poi per chi appunto è stato colpito da questa notizia della sposa bambina Arsaviva, la sua storia la trovate a pagina 16 dell'Avvenire. Era l'ultima segnalazione per oggi, vi do appuntamento però a domani mattina per la prossima rassegna stampa. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.